Il posteggio dei taxi. È libero? Sì, signore. Prendo la valigia? Sì, grazie. Dove andiamo? All'hotel Berchielli, per favore. In via Cerretani, vero? Esatto. Hotel. It's an English word. Sì, ci sono molte parole inglesi in italiano. Hotel, taxi, computer, sport. Interesting. Then I already know some Italian.